guaio delle nubi, un sole nella pelle, su quelle spiagge di vernici e di silenzi bere, assorsi piccoli tuoi baci come fontanelle, mattino presto e code splendide di primavera, stanchi di vento e non di noi. Cosa va di più? Entravamo in quella casa senza tende, senza niente dentro, e al centro su una sedia sopra il mondo ci amavamo, in un abbraccio sospirato come un ballo lento, e con le labbra morse e pallide ci inseguivamo, l'ultima nostra faccia vivi, eravamo come aria semplice, oh vivi, eravamo come fuoco giovane, a cuore nudo vivi, eravamo come acqua umile, vivi come terra fertile. Cosa va di più che andare mettendo tutta l'aria di una sera nei polmoni, nelle vie degli altri camminare, cercando una paura nuova, il buio di portoni, tirarti sulla gonna, farlo in piedi, assaporare la nostra dura finita. Cosa va di più? Stavamo senza vestiti, senza tempo, senza altro sotto il tuo cappotto, e con le gambe ci accarezzavamo, e un cielo pesto ed io se la mandava giù a dirotto, e dentro gli occhi allarmi a bestemmiarci io ti amo, riflessi americani vivi, eravamo come aria semplice, oh vivi, eravamo come fuoco giovane, a cuore nudo vivi, eravamo come acqua umile, vivi come terra. Vivi, torneremo come aria semplice, oh, vivi, torneremo come fuoco giovane, a cuore nudo vivi, torneremo come acqua umile, vivi come terra fertile. E vuoi di più che avere solo guaio delle nubi, e non vedere mai chi soffre e muore, non hai dubbi, tanto è lontano.